Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. E 35 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori, siamo qua, si può fare, ciao Carlo. Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica. E allora, anche oggi senza dire nomi e cognomi, perché andiamo avanti con lo sciopero delle firme per la situazione che conoscete al Sole 24 Ore, chiediamo all'azienda un segnale di discontinuità. Il quotidiano sta facendo sciopero a oltranza per non dare al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori il benché minimo dubbio che non siamo più che trasparenti, più che sempre al servizio del nostro pubblico, visto insomma, quello che è successo, visto l'indagine della magistratura, certo. Eccetera eccetera, quindi non posso dire buongiorno ad Alessio Maurizi. Vabbè, allora, tu non puoi non essendo un giornalista, giustamente io non essendo un giornalista, mi hanno detto che posso fare come voglio, quindi ho detto solo il nome, diciamo solo Carlo e non dico il cognome, così a mezz'asta. E non ci sono più ispettori, mi sembra. No, ma perché è domenica, documento però, ce l'avevo in tasca. Allora, documento, favorisca il documento, da domani rientrano, ritorno. Io venendo solo il sabato e la domenica, quando ho letto la notizia di venerdì, infatti ho detto vedi tu, tutte mi perdo tutti i pezzi migliori andando solo il sabato e la domenica. Allora cari ascoltatori, intanto facciamo un aggiornamento su ieri. Pensavo che l'aggiornamento fosse, ero qua pronto a guardare verso il fuori perché c'è il sole. Andiamo Milano, Monte Rosa, è bello. Sole è bello, ieri è stata una giornata bellissima e anche oggi si prospetta una giornata straordinaria. È il mio momento meteo e quindi ne sono abbastanza fiero. Oggi è un battesimo, tutti quelli che hanno un battesimo saranno felici perché almeno si va a prendere un po' di sole, perché insomma normalmente uno quando va c'è un po' di tedio anche, no? Però a queste cerimonie è classico, adesso cominciano tutte le cerimonie con la primavera. Allora, l'aggiornamento che riguarda la giornata di ieri è questo: l'ascoltatore che vince il gioco di ieri è Enrico da Ferrara, quello che per sentirsi giovane, sì, un po' come Berlusconi da McDonald's, esatto, da lì eravamo partiti, va a giocare a calcetto con gente che ha 20 anni. Pallamano, era un giocatore di pallamano che aveva smesso, però a 50 e passani ha riniziato con una squadra e sono in B, se non ricordo, e rischiano di andare in A1 e quindi noi tifiamo per loro. Tutti quelli che lo dico, ma cosa fai lì con i più giovani, che c'è un vecchietto, però lui sta lì forte e tiene alta la bandiera. E ha promesso che giocherà un minuto in Serie A. A lui il libro, siamo un po' indecisi anche oggi tra... tra Dostoevsky e Flaubert, direi. o forse anche Baricco, perché ci stiamo chiedendo il giocatore di pallamano che cosa predilige, è più per Madame Bovary o più per Oceano Mare, insomma ci stiamo chiedendo. Invece per quanto riguarda oggi il personaggio della settimana che andiamo cercando, diamo subito un indizio così cominciate a chiamare. C'è una notizia degli ultimi 7 giorni che riguarda questo personaggio, che primo indizio è coraggioso. Coraggioso. Quindi spizzarritevi, aspettiamo le vostre storie, anche perché il bello di questo gioco è che magari invece ci raccontate una notizia che a noi è sfuggita o che non abbiamo detto con precisione. E allora, tra poco, l'azienda che dà 1500 euro ai dipendenti che fanno figli nella settimana in cui l'Istat ci ricorda che le culle sono sempre più vuote, sono sempre più vecchie, abbiamo trovato il nostro si può fare. Però adesso cominciamo con le notizie della settimana, vai. Domanda esplicita che c'è in quel referendum, che è ridurre la precarietà e ridurre le forme precarie di lavoro, si moltiplicano, perché dentro quel testo ci sono 3 ipotesi di voucher, si continua a parlare di pubblica amministrazione, si continua a parlare di imprese, quindi non c'è la scelta che invece credo sia essenziale per una... Questa è la Susanna Camusso, segretario della CGIL, sta commentando l'ipotesi di riforma della questione dei voucher, di cui si è molto discusso, perché anche questo si può fare, che è un po' andato fuori strada. Quindi c'è questa riforma, si parla di concedere i voucher solo per le famiglie o per le imprese, ma soltanto con un limite di 3.000 euro all'anno, imprese che non hanno dipendenti, quindi non più le grandi imprese potranno utilizzare i voucher, la pubblica amministrazione solo per l'emergenza. Esatto, e soprattutto chi li usa troppo è obbligato ad assumere, cioè se tu paghi qualcuno a voucher fino a... Adesso mi sembra che il tetto fosse 7.000, invece lo vogliono abbassare appunto a 3.000. Il 14 marzo arriverà in commissione lavoro alla Camera questa proposta, però qualcuno dice è semplicemente una proposta per depotenziare o addirittura annullare il referendum. Questa è la posizione che, della, che è il della nuovo CGL. Spauracchio di chiunque, visto dopo il 4 dicembre. Il referendum ormai è una parola che sembra significare esecuzione. Un'altra vicenda di cui si è molto discusso è quella dei disabili in Sicilia. Sembra che sia stata trovata una soluzione. Vorrei pensare immediatamente dare un sostegno. Un assegno sulla, che dovrà, dovrebbe essere erogato su dichiarazione del bisogno da parte delle ASL, di non meno di 2.000 euro al mese in questi 2-3 mesi. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. E la settimana in cui l'Istat ci ricorda che il popolo italiano invecchia e non fa figli, e a pochi giorni dalla festa delle donne dell'8 marzo, eccola la notizia, l'abbiamo trovata. Il gruppo Brazzale, nota azienda lattearia veneta, regala un bonus di 1.500 euro ai dipendenti che fanno figli, una mensilità in più al dipendente che decide di fare un figlio. Ecco noi Roberto Brazzale, titolare dell'azienda, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, eccoci qua. Insomma, se il welfare, Brazzale, se il welfare italiano funzionasse a dovere, probabilmente non ci sarebbe bisogno di iniziative così, ma tant'è. Come vi è venuta in mente questa idea? La cosa più semplice e più doverosa del mondo. Poi anche lavorando in Repubblica Ceca abbiamo visto come in quel paese si dia attenzione, molta più attenzione alle mamme, al congedo parentale che dura fino a 3 anni, perciò ci sembrava che fosse da tradurre anche in Italia, visto che alla fine purtroppo le coppie giovani che vogliono avere figli non hanno non sono al centro delle nostre attenzioni, ci sembrava di dare loro una mano, ma guardi, soprattutto al di là dell'aspetto concreto, che pure è rilevante, ma soprattutto come fatto simbolico, abbiamo voluto dare il messaggio ai nostri collaboratori che siamo dalla loro parte e che l'azienda accoglie con entusiasmo nuove nascite e dovrà sapersi organizzare e far carico di quanto necessario per garantire loro l'utilizzo più sereno dei periodi di congedo parentale. A noi sembra comunque che le mamme stiano anche bene vicino ai bambini, al di là di tutto, per cui i congedi parentali sarebbe bello che anche in Italia fossero più lunghi per tutti e perciò permettessero anche alle mamme di stare vicino ai bambini. Senta, ci sembra di aver fatto solo una cosa molto normale. Una cosa normale, però appunto diciamolo, no? In effetti tanto normale in Italia non è, tanto che mi viene da pensare questa settimana il premio direzione ostinata e contraria io lo darei a voi, cioè mi viene in mente un po' quel quadro, quella nota rappresentazione in cui c'è un gregge di pecore che va verso un precipizio e cascano tutte, ce n'è una sola che va nella direzione opposta e chiede permesso perché sta andando in direzione contraria. Tra l'altro siamo un po' abituati ad andare in direzione contraria. Stavo per dirlo, perché l'azienda Brazzale ha altri progetti, lei lo accennava al fatto che producete una parte in Repubblica Ceca, siete abituati quindi a far discutere, a far parlare di voi. Ne parliamo fra l'altro tra un attimo, perché le voglio chiedere come sta andando con i vostri progetti, però per chiudere l'argomento sulle mamme e sui figli, il fatto che in Italia si fanno pochi figli, insomma 1.500 euro sono sufficienti per fare carrozzina, passeggino, lettino, una dote di vestiti e di pannolini, probabilmente per si affronta per bene il primo anno di vita del bambino. Però chiaramente magari non sono tutte le aziende che possono permetterselo. Quale sarebbe, qual è la via maestra secondo lei in un paese come l'Italia invece per dare fiducia alle giovani coppie che vogliono mettere su famiglia? Guardi, le risorse ci sono, purtroppo sono impiegate per altre cose assolutamente secondarie. Io, è un'opinione personale, mi scuso, ritengo che si debba rimettere al centro la maternità, al centro di tutta l'attenzione della società e anche delle imprese. Poi tutto il resto si adegua. Quando noi facciamo una scelta di priorità, e questa è la priorità numero uno, tutto il resto si armonizza e si regola di conseguenza. Ci sono già tante categorie che hanno così tante garanzie, così tanti privilegi, che sicuramente potremmo trovare risorse per dare maggiore fiducia a questi giovani che intendono poi, tra l'altro, avviarsi ad una avventura che è meravigliosa, che è stupenda e che deve essere meravigliosa per tutta la società, non soltanto per chi la vive direttamente. Insomma, ecco, la centralità e la priorità che bisogna dare a questo fatto, poi il resto si trova. Non è mai un problema di risorse in un paese come l'Italia, dove le risorse sono molto spesso sprecate in modo assolutamente discutibile e sterile. Lei ha fatto discutere, lo dicevamo, no? Soprattutto per la decisione di aprire una filiale, insomma, di lavorare anche in Repubblica Ceca, dove produce almeno una parte della lavorazione del Gran Moravia. L'accusano, lei, tra i fondatori del consorzio Grana Padano, di delocalizzare, di fare il Made in Italy all'estero. Lei però dice: io non ho delocalizzato, ma ho fatto crescere le mie aziende, ho internazionalizzato. Qual è la differenza, Brazzale? Ma la differenza è semplice: non si è soppresso nessun processo produttivo in Italia, si è sviluppato fuori dall'Italia e perciò accrescendo, oltretutto raddoppiando i dipendenti italiani e elevando di molto la loro specializzazione. Ciò che è successo nel mondo negli ultimi 20 anni, questa gigantesca, meravigliosa apertura e pacificazione, ci ha permesso anche a noi italiani di intercettare dei flussi produttivi e andare a gestirli in proprio, anziché essere semplici, passivi destinatari di esportazioni altrui verso il nostro paese. Dobbiamo ritornare, possiamo ritornare protagonisti anche del nostro autoapprovvigionamento alimentare con prodotti di altissimo livello in aree che sono assolutamente vocate e che ci permettono di realizzare i prodotti nostri, italiani, della nostra tradizione al massimo livello, aumentando le esportazioni mondiali e anche prendendoci una fetta di quelle importazioni di cui l'Italia ha necessariamente bisogno, perché è deficitaria del 30% per il latte, per esempio, ma anche di moltissimi altri generi, ma gestirli noi in modo da offrire posti di lavoro ai nostri giovani, che a quel punto non si limitano ad essere dei semplici. Cioè lei dice: piuttosto che importare il latte per fare il formaggio, vado direttamente a produrlo io, tenendo sotto controllo il processo di produzione. Lei quindi non ha, ci sta dicendo, chiuso, perso nessun posto di lavoro in Italia aprendo in Repubblica Ceca, anzi mi sembra che avete detto che sono aumentati i posti. Assolutamente no, perché il ciclo continua in Italia con la stagionatura, il confezionamento, la gestione commerciale, ed abbiamo elevato anche lo standard professionale dei nostri dipendenti italiani, che a questo punto governano processi in Italia e anche fuori dall'Italia. Il mondo sta crescendo moltissimo, la nostra materia prima in Italia ormai non può crescere, per cui se vogliamo crescere dobbiamo usare materia prima realizzata fuori e realizzarla noi con la nostra cultura, la nostra filosofia, in collaborazione con popoli straordinari come quello ceco, che è il popolo erede della grande tradizione asburgica. È un'opportunità fantastica. Cioè lei dice: il prodotto Made in Italy, in questo caso il formaggio di qualità, ha tanta richiesta sui mercati internazionali, magari non abbiamo altrettante materie prime in Italia, anzi importiamo latte, allora lei dice: io allargo il processo di produzione e allargo quindi la possibilità per questo prodotto Made in Italy, andando a produrmi il latte in Repubblica Ceca, di poter avere maggiori fette di mercato nel mondo. Ma questo prodotto, il Gran Moravia, è un prodotto made in Italy al 100%, al 50%? Come lo definirebbe? Qual è la differenza tra il suo prodotto e l'Italian Sounding, che si dice che è quella fetta di mercato che ci toglie, che ci fa concorrenza usando il nome e l'idea dell'italianità, ma sono prodotti fatti in Germania o in America o altrove? Ma guardi, la questione è molto semplice. Noi definiamo un prodotto italiano perché ha una prevalenza di di cultura, di fattore umano e in generale destinato al pubblico italiano e di cucina italiana, anche se non è realizzato in Italia. Abbiamo con l'Università di Venezia eseguito uno studio molto interessante. L'italianità, cioè dei fattori produttivi e l'apporto al nostro paese, all'Italia, di un prodotto come Gran Moravia è attorno al 45% del suo valore, mentre per un prodotto tradizionalmente DOP realizzato in Italia può arrivare attorno al 70-75%, per cui è solo un problema quantitativo, ma crescendo di volumi, cosa che si può fare solo attingendo a materia prima realizzata fuori, perché le ripeto, l'Italia è territorialmente limitata, bellissima ma ormai limitata perché il territorio è molto montuoso e più di questa materia prima non può dare. Allora, l'occasione di crescere si ha soltanto sviluppando processi produttivi fuori. L'italianità del food sta nel cervello, nella cultura, nelle braccia che può realizzarsi espandendo l'ambito di operatività. E noi giriamo agli ascoltatori di giudicare che cosa ne pensano all'800 24 0024 naturalmente della decisione della Brazzale di andare per far crescere il lavoro anche in Italia della sua azienda, di andare a portare una parte di questo lavoro all'estero invece. Naturalmente invece per quanto riguarda la decisione di dare un bonus ai genitori che fanno figli, ai dipendenti della Brazzale che fanno figli, questa è una decisione positiva che si commenta da sé. Viva le donne, viva le mamme, grazie Roberto Brazzale, in bocca al lupo, presto. In pochi secondi siamo riusciti, stando fuori, anche a sviluppare l'unica catena di vendita italiana con 1,5 milioni di scontrini, vendita di prodotti importati dall'Italia, anche in un bellissimo paese come la Repubblica Ceca, con 20 negozi. Ecco, non è mai un processo ad un'unica direzione, è sempre un'espansione che porta benefici a tutti. Non solo Italy. Grazie Brazzale, a presto, arrivederci. La saluto, grazie a voi, buona giornata. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua, 8 e 51 minuti. Questa dunque è la storia abbastanza curiosa, no, della Brazzale. Molto curiosa, molto interessante questo fatto anche che lui dice l'italianità del food può anche essere qualcos'altro. Sì. No, mi ha incuriosito moltissimo perché questo fatto di poter dire anche perché l'Italia è troppo piccola e quindi non c'è abbastanza latte, io il latte lo vado a pigliare da un'altra parte, ma comunque rimane il fatto che il nostro know-how su come si fa il cibo resta. Ci piacerebbe sentire che cosa ne pensate voi, cari ascoltatori, all'800 24 0024. Intanto per la notizia d'apertura voglio anche dirvi che tra i paesi che fanno più figli in Italia c'è Costa Bissara, in provincia credo di Vicenza siamo, dove c'è stato un boom vero e proprio delle nascite. Sarebbe curioso andare a capire che cosa è successo lì. Questa notizia, anche perché è un paese che conosco, perché saluto Giuliana, perché è una tua amica di Costa Bissara. Sì, assolutamente, è il sindaco del paese, Maria Cristina Franco, dice: abbiamo fatto antiservizi, scuole nido, infanzia, contributi per le rette scolastiche alle famiglie bisognose e poi servizio di prima accoglienza al mattino prima dell'inizio delle lezioni e dopo scuola per il pomeriggio. Chissà se queste sono state le scelte bisogna decisive. Andare tutti lì, tutti lì. Giuliana, saluto anche la figlia Elettra, ne ha una, però essendo di Costa Bissara una è veramente sotto media, direi bisogna farne almeno 8. Silvia da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cosa volevi dire, Silvia? Io volevo partecipare al gioco. Sì. Intanto volevo salutarvi, buona giornata. Grazie. Bella trasmissione, bellissimo l'intervento della diciamo apertura di un'azienda in Repubblica Ceca, spiegato sotto un altro punto di vista. È un altro punto di vista, esatto, bravo. Sì, siamo abituati a pensarla diversamente, invece esatto, questa volta dimostra come le cose, a volte spiegandole, assumono un aspetto completamente diverso. Bene, io volevo partecipare al gioco. Sì. Prego, noi siamo tutti orecchi. Cerchiamo un personaggio della settimana, sì, che è coraggioso, vai. Coraggiosa, mi è venuta in mente Angela Nicolai. Spiega. Angela Nicolai è una modella russa di cui si è parlato questa settimana, molto coraggiosa perché è una russa e fa delle foto meravigliose dai pennoni dei grattacieli di tutto il mondo. Siccome io soffro di vertigini, ho visto questo servizio ho detto che coraggio, che invidia, e che potesse essere lei. In effetti a questa ragazza il coraggio non manca. È una storia molto cosa bella, siamo contenti che l'abbia raccontata. Non è il personaggio che avevamo scelto, ma come diciamo sempre, siamo contenti perché in questo modo raccontiamo la storia di questa. Sì, ed è coraggio anche questo, è sicuramente questo, quello di questa modella, assolutamente. Quindi ad onorem, se non dovesse indovinare nessun altro, potrebbe anche vincere Silvia dalla provincia di Pavia. Quindi resta in ascolto. Teresa da Verona, buongiorno. In un minuto per chiudere, buongiorno. Buongiorno. Buona giornata. Grazie. Prego. Per me invece, però penso di aver sbagliato, Matteo Salvini, che ieri ha avuto il coraggio di andare a Napoli, vale dire è andato nella tana del lupo. Sì, sì, dove sì. Lo hanno contestato e lui è andato lo stesso, sì. Anche se diciamo che Salvini ci, non dico ci sguazza, però insomma dai. Il dubbio è se sia coraggio o incoscienza, ma comunque... visto poi gli scontri e tutto quello che è successo, comunque la notizia c'è, non è il personaggio che avevamo scelto, ma la ringraziamo di aver chiamato. Grazie anche a questa ascoltatrice Teresa, e niente, rimandiamo la risposta giusta 800 24 00 24. Il personaggio che andiamo cercando è coraggioso, c'è una notizia che lo riguarda negli ultimi 7 giorni, dopo il GR con noi Francesco Pannofino e poi altri indizi, eh? Esatto. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Il segnale orario vi è offerto da... Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Una persona disponibile a tutto e a tutti. Senz'altro si è sparato, il Mario, non ha fatto con intenzione di uccidere, ma non di difendersi, anche, ma di fermarlo, capire chi era, no? Senz'altro... Nella sua testa non è mai passato l'idea di voglio ucciderlo, questo lo posso garantire. E questi erano degli amici di Mario Cattaneo, nell'Odigiano, il paese nel quale viveva, Gugnano, che parla dell'atmosfera che si vive, del fatto che lui non era uno che avrebbe sparato, lui dice una colluttazione, però che erano sicuramente tutti... non è uno che spara per uccidere, è uno che spara per difendersi. La cosa incredibile è che la refurtiva era un sacco di sigarette, non c'è che dire, il fumo fa male, io ho smesso 10 anni fa e quindi ne vado orgoglioso. Vabbè, che dire, beh, qui poi si è riaperta tutta la discussione, non entriamo nel merito, però io ho invece una bella notizia, vi porto da tutt'altra parte. A Livorno, ricordate, ne avevamo parlato del fatto dell'azienda dei rifiuti che stava per fallire, abbiamo intervistato il sindaco Nogarin che ci ha detto stiamo sistemando, abbiamo fatto il concordato è fatto, è stato accettato, tutto a posto, tutto timbrato e bollato, chiuderanno l'inceneritore, è iniziata la raccolta porta a porta dei rifiuti in una grande città, Livorno, la seconda più grande in Toscana, che va verso la risoluzione di un problema, poteva diventare una Tranapoli praticamente, e invece no, quindi quando ci sono le cose che si risolvono bisogna dirle. È un si può fare. È un si può fare, diamo atto a Livorno che stanno risolvendo questa cosa, agli amici del Movimento 5 Stelle, sennò dicono sempre che non ne parliamo mai, che parliamo solo della Raggi. Ma poi detto da un pisano, dai, scusami, infatti, detto da un pisano è perfetto. Sacco, mi costa un sacco, mi costa un sacco. Siamo qui per dialogare, siamo qui per dividerci se serve, siamo qui per dibattere restituendo il senso alla parola compagno, perché compagno viene da cum più panis, colui che divide l'essenziale, la cosa più importante che ha, e io vorrei che noi riscoprissimo il gusto della discussione, della divisione, come nella civiltà contadina da cui proveniamo. le famiglie facevano intorno alla tavola, discutendo con la capacità di farsi carico gli uni delle ragioni degli altri. No, qua si ride, cioè, inevitabilmente. Perché... Compagno Maurizi, stai scioperando e quindi non potrei nemmeno dire il nome. Sì, no, ma la cosa incredibile è che il messaggio che Renzi manda è che un tempo compagni erano quelli che dividevano il pane, oggi è quelli che condividono le discussioni. In effetti dal PD più che chiacchiere non arrivano, questo si può anche dire. Però, insomma, come passa il tempo, come passa? Vabbè, ci ha provato. Ascoltatori, all'800 24 0024, domenica. Che chiama da Mantova. Benvenuto. Pronto. Vai. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il personaggio coraggioso sono io. Io, come tutti quelli che si alzano tutte le mattine e vanno a lavorare. Siamo basiti ed esterrefatti, perché è un'ottima risposta. Siamo noi che nonostante tutti i casini anche del compagno, tra virgolette, Renzi, che ama discutere invece che dividersi il pane, il companatico, noi ci alziamo, andiamo a lavorare, paghiamo le nostre tasse, cerchiamo di mandare avanti questa meravigliosa Italia. Nonostante i casini che combinano tutti quelli, cioè, che facendo meno chiacchiere e più sì. Guardi, è incredibile, ma noi avevamo proprio pensato a lei, quindi avevamo proprio il suo nome, cioè, la notizia era questa, capito? Quindi Domenico, credo che abbia vinto, che come possiamo dirlo però adesso abbiamo un problema, Domenico, perché lei vince e lei è il personaggio, quindi c'è un conflitto di interessi e non sappiamo se il notaio ammetterà questa risposta. Giusto, nel senso che tu dici, cioè, quando scegliamo Papa Francesco, se telefona al Papa Francesco e dice sono io, si porta a casa il libro o meno. E in effetti adesso chiederemo al nostro ufficio legale. Però in questo momento è sicuramente il vincitore morale della giornata di oggi, del nostro concorso. Grazie Domenico. Comunque il personaggio che andiamo ancora cercando, diciamolo, perché sennò poi si interrompe tutto qua. No, è un personaggio che è coraggioso. Vogliamo aggiungere un altro indizio? Vogliamo darlo un indizio? Sì, perché mi sembra arrivato il momento. Lo diamo, il nuovo indizio è che è un simbolo. Ascoltatori, quindi più che coraggioso è addirittura un simbolo. Quindi 800 rimane in gara ancora anche Domenico, sì, io direi, per il momento. Maurizio da Torino. Pronto Maurizio? Buongiorno, ci sono. Eccolo, cosa volevi... Allora, riguardo l'intervento dell'imprenditore che riproduceva il suo prodotto in Repubblica Ceca e che diceva che rivendicava il 45% di italianità. Sì. E io, se non erro, non vorrei aver capito male, e diceva anche un sorto di un tizio di orgoglio. Secondo me, di italianità in un prodotto che ha il 45% non è italiano. Cioè, nel senso, io non voglio fare colui che pignola per forza. Cioè, bisogna arrivare almeno al 50%, lei dice. Ma guardi, ed è comunque poco, perché in ogni caso un prodotto italiano io vorrei fosse almeno per 3/4, 4/5 italiano. 75, 4, 80, esatto, 80. Facciamo una sorta di tombola, però... No, ma c'ha ragione, Non la stavo prendendo in giro, stavo semplicemente dando delle percentuali perché giustamente immagino che a un certo punto bisognerà decidere qual è la percentuale per cui un prodotto lo si può definire italiano. Anche perché abbiamo dei prodotti, nel senso, il nostro paese è conosciuto in tutto il mondo per un certo tipo di prodotto che è l'italianità della madre del prodotto, di come viene lavorato, del nostro know-how, che è veramente spettacolare. Sa cosa c'è di positivo per il Made in Italy in un prodotto che magari Made in Italy non è, come dice lei? Il fatto che alla Brazzale in Veneto sono aumentati i posti di lavoro, cioè c'è più occupazione con questa, diciamo, internazionalizzazione dell'azienda, che lo porta a essere non più un Made in Italy, come dice lei, al 100%, si dà però lavoro a tanta gente. Questo è un Made in Italy che anche questo ci sta un po' a cuore, in qualche modo. Anzi, Maurizio, grazie comunque per aver chiamato. Ci stava. 800 24 0024, cerchiamo un personaggio della settimana che è coraggioso. Ed è un simbolo. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. si dice portoghesi, no? Quelli che non pagano il biglietto, però si potrebbe dire tranquillamente anche italiani. Volevi dire, forse all'estero diranno italiani, perché siamo tanti, troppi, quelli che non pagano il biglietto sul mezzo pubblico. È così, non va bene, soprattutto non va a bene, Roma. No. Sono tantissimi. E allora l'ATAC, l'azienda romana dei trasporti, tra milioni di difficoltà, sta cercando di correre ai ripari. Più controllori, si annunciano tornelli in uscita anche per verificare il biglietto e un testimonial che darà la svolta. Francesco Pannofino, che è in collegamento con noi. Buongiorno, buona domenica. Ciao, buongiorno a voi. Come buongiorno, va? Benissimo. Bene. Ciao Francesco, sono Carlo Gabardini. Sì, come stai Carlo? Bene. Per una volta invece di andare al pomeriggio a Voice Anatomy con Pino Insegno sei qui con noi, insomma. Sì, ma io sono ecumenico, non so problemi. Bravo. Allora, una campagna. E vogliamo far sentire anche che bella voce che c'ha Panno fino anche alle 9 del mattino di domenica, spacca. Quindi insomma. No, vabbè, spacca. Mi dispiace non avere la vostra verve, perché sono... ieri sera, cioè, sono a Palermo, sto facendo un teatro, quindi puoi capire come sono ciancicato stamattina. Certo. Infatti tu, tanto onore, tantissimo onore, i suoceri albanesi al Massimo di Palermo, è uno spettacolo di Claudio Boccaccini, tra l'altro, e no, beh, non hai la verve, però, cioè, noi siamo dopati, capisci, perché abbiamo bevuto 8 caffè, quindi cioè, la gente normale ha il tuo andamento, anzi, cioè, tu sei fin troppo dopati sveglio. Versus doppiati. Sì. Esatto, bravo. Allora, questa campagna, fatemi dire il nome, se lo trovo da qualche parte, dove l'abbiamo messo? Ragazzi, no, non c'ho più il Non farti riconoscere. Non farti riconoscere, paga il biglietto. È uno spot, adesso ne sentiremo anche un pezzettino. La domanda che devo farti è, per forza è questa: ti hanno chiamato più perché volevano una voce ultra sexy, quella naturalmente George Clooney, per far capire che pagare il biglietto è da fighi, oppure volevano qualcuno che risolvesse una roba impossibile come Boris, l'autore Boris noto delle imprese super ultra impossibili? Non lo so perché mi hanno chiamato, però mi è stato proposto e io ho pensato che fosse una cosa giusta da fare, insomma. Giusto. Perché se noi ci lamentiamo che i servizi non sono adeguati, però poi non possiamo pretendere se non paghiamo il biglietto, insomma. Certo. anche perché purtroppo può capitare, insomma, nelle città che uno monta, sale, arriva e se ne va. Certo. L'hai descritta, cioè, così, con tre parole, ma in effetti è quello, cioè, lo sai, molto... sì, è soltanto quello. Poi, insomma, è chiaro che lo spot è estremo, si racconta un mondo che non esiste, però insomma, è soltanto per per sensibilizzare, perché è una questione di cultura più che di soldi, secondo ma me. Scusa, dici che si descrive un mondo che non esiste perché su quell'autobus c'è solamente uno che non ha pagato il biglietto? Sì, è chiaro che è paradossale la cosa, perché di solito è il contrario, però... Cioè, di solito si riconosce chi è che paga il biglietto, guarda quello che ha pagato il biglietto, ma ti rendi conto, c'è ancora uno che paga il biglietto. E invece, infatti noi volevamo quasi proporre un ribaltamento, cioè quasi che lo spot dovrebbe essere: fatti riconoscere, paga il biglietto, cioè devi salire sul tram e dire: signori, buongiorno, sono quello che ha pagato per tutti. Esatto. Vabbè, allora proponiamo Gabardini come autore del prossimo spot dell'ATAC, che il comune potrebbe ingaggiare. Lo sentiamo un pezzettino dello spot, una parte, per diciamo Pannofino che... scrivo sempre volentieri. Ah beh, sì, grande. Vai, sentiamo. Lei non timbra? Certo che timbro, un attimo, mica. Ma poi questi dell'ATAC, pure se non li paghi, che? Ma poi qui non paga mai nessuno. Avete sentito? Dice che qui non paga mai nessuno. Io c'ho sempre dietro abbonamento. Io mi porto anche i biglietti di scorta. Calma, signori, che succede qui? Insomma, lei non ha il biglietto. No, ce l'avevo, non è che... Ce l'ha un nostro biglietto. Vabbè, ma qui non paga mai nessuno. Ma che sta a dire? Hanno pagato tutti, lei è l'unico che non ha pagato. Guardi come la guardano. Si sta facendo riconoscere per 1,50 euro. E mo si becca pure la multa. Ma la multa? Non farti riconoscere. Paga il biglietto. Beh, senti, Frizzi e Lazzi, che poi a Roma il vero problema è prenderlo l'autobus, cioè trovare l'unico autobus che passa quella settimana lì dalla tua periferia, perché... Ci sono delle speranze che migliori il servizio. Ma a parte di sì, adesso io non sono dentro l'ATAC, però mi sembra che la volontà per migliorare il servizio ci sia. Beh, è assolutamente obbligatorio, perché Roma è una città abbastanza difficile da vivere dal punto di vista dei trasporti. Allora l'autobus, se si migliora il servizio, chiaramente per raggiungere anche punti lontani dove è difficile arrivare la sera, eccetera. che meno risorse si hanno e meno servizi si possono avere. Insomma, una campagna di sensibilizzazione è anche un problema di civiltà, nel senso che gli italiani, no? Magari a Roma non pagano il biglietto, poi appena vanno all'estero si fanno un abbonamentino, il carnet di 5 euro. Verissimo, capito? Che costa anche il triplo. Esatto, cioè, per dire, capito? Allora magari la stessa cosa si potrebbe fare nella tua città. No, ho trovato che fosse una cosa civile, giusta, e ho aderito con entusiasmo, insomma. Tutto qua. Mi sono limitato poi a fare la parte del controllore, che era una parte ingrata, perché non è molto, infatti sì. Quando ho letto la notizia e ero sicuro che avresti interpretato la parte di quello che non pagava il biglietto, nel senso che mi avrebbe fatto molto ridere, nel senso, sì, per dire un po' il personaggio di Alberto Sordi, per intenderci, quindi era un complimento, non voleva essere si rischiava che si tifava per l'evasore, invece esatto. No, non va bene, no, non però va bene. È molto giusto la cosa che ricordi, sì. Che il concetto di fondo è che furbo non è chi non paga, perché è veramente una follia, nel senso che tu non stai pagando una cosa che è tua, nel senso che i mezzi pubblici ci appartengono e la furbizia è proprio pagare, nel senso che se io pago poi magari invece che una ogni 17 minuti improvvisamente ne passerà una ogni 8 minuti e mezzo, però per far passare questo concetto è sempre molto difficile. Ed è anche vero la cosa che giustamente stavi ricordando, che bisogna un po' capire chi deve iniziare, perché c'è molta gente che dice io non lo pago perché tanto qua passa un autobus ogni 47 minuti, e qualcun altro che dice finché tu non paghi l'autobus ne passerà uno ogni 4 ore, quindi esatto. Mi sembra tutto molto corretto e tutto torna. Senti, ma... bene che le cose dei bisogni, dai. Senti, ma il tuo amico e collega Neri Marco Re, che ormai è associato, è quasi un volto, no, del PD, un po' della sinistra eccetera, tu te la senti di essere il nuovo volto del Movimento 5 Stelle o non ti ci ritrovi per niente in questa cosa? Io, non te ne frega niente. Non c'entra niente. No, nel senso veramente, sono né militante né niente, io sono stato chiamato solo per fare lo spot dell'ATAC, vedo poi ci sia la giusta. Ti sentiamo tra l'altro male, sentiamo, a Palermo ci deve essere qualche problema. Ma ti hanno regalato un abbonamento? Perché il mio sogno sarebbe fare uno spot così e poi avere un abbonamento. No, ma manco per niente. Ecco, questo manco per niente, giustamente. Ma né abbonamento né soldi, che sia chiaro. Solo, cioè, hai messo solo la faccia. Senti, ma anche qua domanda da $1 milione, meglio impersonare, dare la voce a George Clooney, impersonare Boris o fare il testimonial della campagna dell'ATAC? È caduta, basta, è morto, fanno fine, è morto. prego. No, a questo punto quasi non ti sentiamo più, e la domanda è stata letale, devo dire, in effetti me ne assumo la responsabilità. Ci sei, Francesco? Io sì, ci sono. Eccolo qua. Adesso ti sentiamo di nuovo, però in mezzo abbiamo perso qualche cosa. No, dicevo, è tutto del lavoro. Naturalmente quest'ultima cosa che ho fatto è una cosa che ho fatto per aiutare il comune, insomma, aiutare l'azienda e aiutare la città. Poi la politica non c'entra niente. Però se devo scegliere cosa fare tra le tre cose, faccio Boris, se devo essere sincero. Ci piacerebbe un'altra serie. Vai avanti con Boris. Francesco, ci dici due cose di questo spettacolo, I Suoceri Albanesi, che è al Teatro al Massimo di Palermo. Sì, è una commedia scritta da Gianni Clementi e messa in scena da Claudio Boccaccini. Siamo io, Emanuela Rossi, e tra l'altro c'è anche quello che fa la parte dell'evasore nello spot, Maurizio Pepe. Questo è molto bello. E niente, ed è una commedia molto ben riuscita, tant'è vero che sono 3 stagioni che la portiamo in giro, e ci dà tante soddisfazioni, perché comunque è la storia di una famiglia, marito e moglie, alle prese con una figlia adolescente abbastanza ribelle. Poi arrivano 2 albanesi, 2 operai che ristrutturano il bagno. Il più giovane dei due, cioè succede il linguacchio tra lui e la ragazzina. Certo. E la giovane Camilla, i 2 genitori da predicare l'accoglienza, la solidarietà, l'aprirsi agli altri, le nuove culture, eccetera. Quando il problema ce l'hanno in casa, cambiano prospettive, punti di vista, e si creano situazioni paradossali che al pubblico creano l'ilarità del pubblico. E tutto naturalmente è raccontato con leggerezza, a tono di commedia, però oltre a far divertire, poi c'è anche uno spunto per la riflessione, perché comunque la gente vede quello che succede e si domanda cosa farei io al loro posto, come mi comporterei, eccetera, eccetera. E quindi questo, il risultato che raggiungiamo è soddisfacente, perché si divertono, in più pensano, perché è la cosa migliore. Come sempre, perfetto. Quando ci si riesce, il massimo. Ve lo consiglio, perché andare a vedere Francesco Pannofino a teatro è un'esperienza. Perché siamo abituati a tutti gli altri pezzi. No, no, è vero, spesso siamo abituati a sentire solo la voce, certo, o a vederlo invece in video al cinema, e dal vivo è un'altra esperienza. Senti, Francesco Pannofino, l'ultima cosa che voglio dirti è questa: una notizia me l'ero messa da parte, che riguarda l'azienda dei trasporti di Bergamo, che da qualche giorno ha messo su, magari un'idea che puoi dare a quelli dell'ATAC, ha messo sui tram e sugli auto la macchinetta per fare il biglietto. Cioè è un piccolo investimento, però dire adesso non dirmi che non hai trovato il tabacchiere che era chiuso, cioè c'è la macchinetta, quindi anche se non ce l'hai lo puoi fare adesso, e questa è una vecchia cosa, no? Prima, certo, mi sembra una buona idea. Anche il biglietto, sì, la figura del bigliettaio, ti ricordi, si faceva, si saliva e si faceva, adesso non si sa perché non va più di moda fare questa, però no, perché significa avere due persone sull'auto, il doppio dei dipendenti, cioè tutta, esatto, la questione, esatto. Però con queste macchinette si può fare, forse, quindi sì, un'idea, non so dove, mi sembra in Olanda c'è proprio la sbarra, se non hai il biglietto non puoi entrare, cioè capito, come il tornello, certo, tipo il tornello, certo, in qualche modo bisogna organizzarsi. Però dai, speriamo bene, perché la cosa si tratta più di sensibilizzare, insomma, certo, e quindi se tutti pagassero il biglietto il servizio dovrebbe essere migliore, e molto. Cioè, sarebbe migliore, chiaro che questo poi non migliora il servizio, non c'è qualcosa che non va, certo, e sarà sicuramente migliore. Grazie Francesco Pannofino, buona domenica, ciao. Allora, facciamo qualche ascoltatore prima della pausa? Sì, dai, Pierluigi da Genova, benvenuto. Pronto? Vai. Ah, ecco, buongiorno a tutti, buona domenica. Senta, a parte il fatto che mi ero già domandato anch'io come mai al posto dell'obbligatrice, che sono sugli autobus ad esempio, non mettevano direttamente l'emissore dei biglietti, con una moneta cifra tonda, uno mette un euro per dire prendo un biglietto sull'autobus. Sì, c'è in alcuni posti, c'è pochi, ma tipo Bergamo l'abbiamo preso. Speriamo che si allarghi. Sì. Comunque volevo presentare un'esperienza. Io ero ragazzo da militare, alcuni miei amici in quel momento non ci sono andato. Sono andato a fare un giro, un tour in Russia. E erano stati a Mosca ancora una settimana. E con la guida hanno visto, ho visitato tutto, no? A un certo punto però, quando poi la guida al pomeriggio o certe giornate diceva, beh, se volete fare un giro per la per la città, liberi, tranquilli, eccetera, siete stati attenti, spiegato alcune cose, e sono andati a fare un giro, hanno preso un autobus. Sì, però arriviamo al punto Pierluigi, perché tra 20 minuti chiudiamo. No, velocissimo. Salgono sull'autobus, si mettono dietro, come si fa anche di solito, si sta dietro. Salgono la gente, tutta la gente che saliva andavano da questo qua, gli facevano vedere il biglietto, no? Sì. Lui dice, ma l'ho scambiato per un bigliettario. Quando era rientrato, è andato dalla guida e ha spiegato, guardi, mi è successo, che cosa significava? Mi ha detto, guardi, qui non esistono i bigliettari. Chi sale sull'autobus fa vedere il biglietto, come per dire, io ce l'ho davanti a tutti. Quindi salivano e tiravano fuori il biglietto, così. Cioè i controllori erano tutti gli altri passeggeri, praticamente. Esatto, tutti i controllori. Parlo degli anni 70, quindi siamo nell'età della dieta, eppure probabilmente hanno già molto civilmente, hanno già più avanti di noi. Certo. Punto. Quando i treni andavano in orario, potremmo fare un paragone con l'Italia del fascismo? No, però vabbè, cioè, erano altri tempi. Non so quanto spontaneamente tutto ciò potesse accadere, erano veramente altri tempi, Pierluigi. Però cioè, le cose positive si possono prendere e portare, no, tirare fuori dai vecchi contesti. Quindi a dire tutti i controllori, un po' come nello spot di Pannofino, questo è il concetto. Anche se lui stesso ha detto è un mondo che non esiste, che per non ora esiste. Non sa se esisterà mai. Vabbè, Giovanni da Latina, vai. Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno, buona domenica. Un po' mi avete anticipato con gli ultimi piccoli interventi ciò che volevo dire. Io ho 69 anni e negli anni 70-80, prima che togliessero il controllore da sopra, ossia la seconda persona, il bigliettaio così chiamato, okay, le aziende andavano molto meglio, perché la gente pagava ed era educata civilmente a pagare il biglietto. Da quando si sono create queste municipalizzate, questi pozzi dove la politica può prendere sicuramente ciò che vuole, perché a fine anno ripaghiamo con i nostri soldi e nessuno va in galera, allora io gli voglio chiedere questo: quanti pullman girano in Italia, quanti posti di lavoro potremmo creare in più con i bigliettai, che si pagherebbero stipendi tredicesime e anche le vacanze di questa gente che lavora, da sola se le pagherebbe e avremmo creato 200, 300, 400 mila posti di lavoro. Cioè lei dice di rimettere su tutti i mezzi pubblici il bigliettaio. Logico, lo si fa in altri, in altre nazioni, girate o la macchinetta o altro, o addirittura la macchinetta molto conducente, ma lo stesso conducente. Se è il conducente però non abbiamo un nuovo posto di lavoro, se è la macchinetta non abbiamo un nuovo posto di lavoro. Che dalle altre paghe si paga e non si aspetta 40 minuti un pullman e allora sono obbligato a comprarmi la macchina. Ragazzi, non sto inventando l'acqua calda. No, beh, Giovanni, sappiamo tutti, abbiamo detto mille volte con Pannofino che il servizio a Roma va migliorato e contemporaneamente bisogna fare far pagare i biglietti, le due cose contemporaneamente. Diciamo che il bigliettaio di ieri potrebbe essere la macchinetta di oggi, che probabilmente costa meno alle aziende, anche però, se non dà un posto di lavoro. Esatto. Però il problema è far funzionare i mezzi pubblici o dare posti di lavoro, e sono due cose diverse, cioè nel senso, non è che per forza devi creare lavoro con i mezzi pubblici. No, anche perché la maggior parte invece delle aziende di mezzi pubblici sono messe male. A Milano è un po' un unicum che c'è l'ATM che è messa benissimo, ma in realtà di solito per costi, i costi sono molto ingenti, se raddoppi il numero dei conducenti, insomma. Ci abbiamo anche Giulia che ci chiama da Perugia. Ciao Giulia. Ciao, pronto? Sì, sì, ci sono. Eccola qua. Allora, io chiamavo per rispondere, per trovare il personaggio, però prima volevo dire che voi prima avete detto fare i portoghesi, no? Sì. In realtà fare i portoghesi non si riferisce ai portoghesi, ma a un gruppo di italiani che non so in che periodo si allora era finto portoghese. Allora lo vedi, ma davvero questa io non lo sapevo. Sì, è la storia. Sono i finti portoghesi in uno stadio, giusto? No, io sapevo per andare all'ambasciata. Ognuno la sa, modo suo. Partecipare a un banchetto gratuito. Ah, perfetto. Quindi erano finti portoghesi per poter mangiare gratuitamente. Ah, perfetto. Poi non so. Allora vedi che i portoghesi in realtà siamo noi italiani. Infatti, sì, non c'entrano i poveri portoghesi. No, infatti, lasciamoli stare. Perfetto. E adesso vogliamo sapere, adesso che ci hai giustamente erudito, vogliamo anche sentire il tuo personaggio. Allora, per me è Amal Clooney, che ha partecipato all'Assemblea delle Nazioni Unite in difesa delle donne vittime dell'ISIS. Un simbolo, sicuramente. Amal Clooney, anche un simbolo del glamour. Coraggiosa, beh, perché coraggiosa? Amal Clooney? Perché? Non lo so. Faccio però così, provocatoriamente, perché te la butto sta con lì la voce di Pannofino, volevi dire? non lo so, potrebbe essere coraggioso il fatto di parlarne anche da incinta, mentre è incinta, non lo so. Beh, questo potrebbe essere, perché molte donne quando poi sono incinta vengono in qualche modo messe in un angolo, è vero. Invece lei va avanti e diciamo in qualche modo offre anche la sua maternità come un elemento così. Però non era lei il personaggio. Non era il Io personaggio. Per quello ho giocato sul coraggioso, perché noi cerchiamo un personaggio che è molto più coraggioso, possiamo dirlo. Più coraggioso possiamo. Di Amal Clooney sicuramente, senza togliere nulla alla meravigliosa, anzi bellissima moglie di George Clooney, che è incinta. Abbiamo appena sentito la voce del marito, quindi mi sto incartando perché sto pensando a quanto è bella Amal Clooney. No, cosa dobbiamo fare? C'è la pausa? Dobbiamo dare un altro indizio? No, aspettiamo un attimo, siamo cattivelli. Poi tra poco, semmai ve lo diamo se c'è bisogno. Il personaggio è coraggioso ed è un simbolo. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. No, I think that measuring with precision human activity on the climate is something very challenging to do, and there's tremendous disagreement about the degree of impact. So no, I would not agree that it's a primary contributor to the global warming that we see. Si è capito poco, si è capito poco che Morigano se mangia, si mastica le parole in bocca, ma questo signore qua, adesso lo risentiamo magari. Cioè stai dicendo che ha parlato male in americano? No, siamo noi che non siamo ignoranti, ma lui è Scott Pruitt. Chi è Scott Pruitt? Sì. È il nuovo capo dell'Agenzia Federale per l'Ambiente Americana. Qui è abbassato il tono calante, sì, perché sì, questo signore calante qua dice testualmente. Perché l'avevamo già detto a gennaio, ma allora, speravamo che cambiasse qualcosa, invece è proprio lui. Ha detto, credo che misurare con precisione l'impatto delle attività degli uomini sul clima sia qualcosa di molto difficile. Sul livello di questo impatto mi sembra che esista un immenso disaccordo. Il capo dell'Agenzia Ambientale Americana che dice praticamente che i cambiamenti climatici non sono derivati dalle attività umane, anzi non ci sono questi cambiamenti climatici, cosiddetto negazionista. Esatto. Chiude proprio dicendo non sono d'accordo che si tratti di un fattore primario nel riscaldamento globale, cioè l'uomo non c'entra niente. Ora dici perché ti scaldi tanto? Ma mi scaldo sì, perché è come Red Ronnie che parla dei vaccini, è come se andassi a farmi curare il dente dal falegname. Cioè questo è un politico, non è uno scienziato. Dice che secondo lui non c'è l'impatto delle attività umane sul clima. Gli scienziati però, io sto ad ascoltare loro, sono abbastanza, diciamo, 99,99 l'intera comunità scientifica, dicono tutti un'altra cosa. Quindi che dobbiamo fare, signor Scott Pruitt? Vabbè. Niente, è una tristezza perché è lui a capo dell'Agenzia Federale per l'Ambiente, come se fosse il ministro dell'ambiente. Ecco, ministro dell'ambiente negazionista sui danni creati dall'uomo mi sembra un problema. Quando il gioco si fa duro, solo i duri iniziano a giocare. E siccome per la storia del castello di San Mezzano il gioco si sta facendo caldo, perché questo gioiello architettonico in provincia di Firenze, lui e il suo parco, prima messo all'asta, nel frattempo sottoposto a rischio incuria, cioè proprio sta quasi andando allo sfacelo, dopo gli appelli, le dichiarazioni dei politici e dopo aver scalato tutte le posizioni della classifica del FAI per i luoghi del cuore, adesso è venuto il momento di trovare una soluzione, di fare qualcosa di concreto. Allora noi abbiamo convocato Francesco Esposito, referente del gruppo Save San Mezzano. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie mille. Buongiorno. Allora, noi ci siamo per darvi una mano, per fare un po' di pubblicità, anche perché quando abbiamo cominciato a parlarne, non per fare quelli che l'avevamo detto, però insomma, l'avevamo scovato, questo di sicuro. Ci siamo sentiti tanto tempo fa, quando possiamo anche riepilogare un po' le tappe di questa storia. Intanto voglio chiarire, il si può fare, qua siete voi, cioè un comitato di cittadini nato spontaneamente per cercare di ridare nuova vita a questo luogo meraviglioso, vero? Esatto, sì, abbiamo fatto tante cose da quando siamo nati, da 18 mesi fa. All'inizio, insomma, per l'appunto erano pochi cittadini. Abbiamo fatto talmente tante iniziative di anche impatto, cioè dal punto di vista sociale molto molto forti, a parte le conferenze, interrogazioni parlamentari, abbiamo per l'appunto vinto il censimento nazionale Luoghi del Cuore e adesso, insomma, quello che era possibile fare dal punto di vista della sensibilizzazione l'abbiamo fatto. è giunto il momento di concretizzare. Ecco, sì. Esatto, infatti la cosa che ci chiediamo è adesso cosa succede? Che si fa? Nel senso che ricordiamo anche la questione, è privato, sì, giusto? Sì. San Mezzano. E non si riescono a trovare dei fondi pubblici sufficienti per acquistarlo, perché se ho capito bene costerebbe 20 milioni acquistarlo e tipo altri 20 ristrutturarlo, e quindi si stanno cercando dei soldi privati. Comunque raccontacelo tu con precisione. Allora, la situazione attuale è che comunque il castello, dicevate giustamente, è privato, è così, e è purtroppo all'asta, perché in realtà l'asta è stata sospesa, non annullata. Quindi significa che non c'è una situazione chiara della proprietà attuale, perché fino a maggio l'asta è sospesa, se a maggio la rifanno un'altra volta, magari cambia proprietà. Chi è il simpatico proprietario di... Cioè, perché per essere proprietario di una roba del genere devi essere, non lo so io, il sultano, chi cacchio sei? Cioè, chi è il proprietario? È una società italo-inglese attualmente, è da 15 anni la proprietaria di San Mezzano. Che però non c'ha più un quattrino o non c'ha voglia di investirli. Sì, avevano un grande progetto per farci un resort di lusso, un hotel, insomma, sempre a carattere turistico, però poi insomma questo progetto non l'hanno mai avviato. Ma non l'hanno mai avviato o è ciò che voi non vorreste che venisse fatto nel castello? Cioè, il logico è noi non sarebbe quello il nostro sogno. Certo. Se un hotel di lusso in un posto del genere, secondo noi sarebbe più utile come luogo per attività museali, culturali, qualcosa di un po' più a portata di tutti. Cioè, assolutamente, certo, insomma, è il più importante esempio di architettura eclettica d'Italia, si sta parlando di un bene unico. Quindi ce lo descrivi un attimo, perché magari chi ha visto qualche foto di solito diciamo sempre stato, andate a cercarvi la foto, esatto, perché è veramente abbastanza quando uno lo vede dice ah è questo, è accidenti, e capisce. Se uno non l'ha mai visto, aiutiamolo a visualizzare. Sì, se uno non l'ha mai visto non si rende conto di cosa parliamo, ma sì, si tratta di un monumento che racchiude dentro di sé differenti stili artistici architettonici, per esempio lo stile moresco, lo stile bizantino, lo stile cinese. Quindi insieme dentro a questo castello ci sono degli stili artistici, e quando uno passa da una stanza all'altra è come se passasse dalla Cina all'India, dall'India alla Spagna, dalla Spagna all'Egitto. E ogni volta è un colpo al cuore, perché assolutamente, perché noi italiani non siamo abituati a vedere delle sale con tutti questi colori, tutti colori vivaci, cioè con tutte queste vetrate anche colorate, cioè noi italiani non siamo abituati a vedere spettacoli del genere, quindi è per noi una cosa veramente bellissima da scoprire. Adesso che succede, quindi? Adesso possono succedere varie cose. Allora, la prima cosa è che comunque il FAI si è attivato, si sta attivando per un tavolo di concertazione, siamo con i proprietari, possibilmente con il Ministero dei Beni Culturali, e siamo fiduciosi che se c'è di mezzo il FAI, che ormai è diventata un'autorità, il Fondo quasi Ambiente come il Vaticano, Italiano, qualcosa succederà. Infatti siamo fiduciosi, insomma, che questa cosa sia utile. E la seconda cosa è che noi come Save San Mezzano possiamo presentare al FAI un progetto da 54.000 euro per recuperare la valorizzazione del castello. Adesso, e cosa ci si potrebbe fare con questi 54.000 euro? Allora, per adesso è segreto. C'è il segreto, non potete rivelarlo nemmeno a noi che siamo... Adesso non possiamo. Vostri fan tutta la vita. Prima dobbiamo farlo al FAI. Ah, e giusto. Poi dopo questi soldi ve l'hanno dati loro, insomma, vi hanno aiutati a procurarli loro, no? L'hanno dati i cittadini, certo, tramite il FAI, quindi dovete ragionarne con loro. Appena avete quagliato, come diceva prima Carlo, facci sapere. Assolutamente sì. Anche perché questa qui è una storia unica, cioè un castello privato come questo, che adesso si cerca di evitare che diventi o un resort chiuso al pubblico, oppure semplicemente che quanti anni è che è dal 91, il castello è 91, chiuso. Capite che sono quasi 20 anni a questo punto. Sono quasi 30 anni. Sono quasi 30. Ricordiamoci sempre che il castello non è fatto di marmo e d'acciaio, cioè sì, gesso, stucchi, ceramiche, quelli sono materiali che con l'umidità e il trascorrere del tempo e dopo diventano irrecuperabili. C'è il rischio che ce lo stiamo giocando il castello, certo, e quindi bisogna fare qualcosa. Assolutamente sì, poi considerate anche il parco, che è bellissimo, c'è il più importante gruppo di sequoie d'Europa, ci sono alberi monumentali, insomma. E quindi insomma trovare una soluzione per questa, che è una storia particolare ma che non è unica, potrebbe anche aprire la strada, chissà, ad altre soluzioni di altri problemi simili. L'Italia è piena di gioielli meravigliosi che vanno salvati e, certo, e a cui dare nuova vita. Grazie Francesco Esposito, grazie mille. San Mezzano, continuate così, aggiornateci, fateci sapere, noi siamo qua. Va bene, c'è il traffico e poi torniamo. 800 24 00 24. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Si può fare, cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Ho fatto fare uno studio ieri perché ero convinto che fosse un fotomontaggio. Non credevo ai miei occhi quando vedevo Silvio Berlusconi seduto a quel tavolo, e invece poi mi hanno detto che effettivamente era lui. Fosse stato con una bella ragazza, forse sarei riuscito a capire perché si è spinto fino a McDonald's. Questo era Vittorio Feltri, incredulo, dopo aver visto la foto di Silvio Berlusconi seduto a un McDonald's. Come dargli torto? In effetti non si sa se è più, se è peggio Berlusconi al McDonald's o Renzi che vuole rispolverare i compagni, no? Perché sono tutti e due così, tentativi di rifarsi. Compagni a McDonald's, volevi dire. Compagni a McDonald's. Allora, abbiamo Fabio che ci chiama da Viareggio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Volevo dare la risposta per il quittone. Prego. Mario Draghi. Mm-hmm. Qual è la notizia legata a Mario Draghi di quest'ultima settimana? Chi è lui, lo sappiamo? Sì. Beh, chi è lui lo sappiamo, è sicuramente, certo, importante. Ha mantenuto stabili i tassi nonostante la Germania avesse fatto pressioni molto forti perché questo non succedesse. Poi si è beccato delle critiche molto violente, quindi dalla Germania. È stato sicuramente coraggioso andare avanti. Mi sei molto sul pezzo, però in effetti non era lui. Non era il nostro personaggio, ma comunque siamo contenti di aver ricordato. È un coraggio anche quello. Esatto. Da un certo punto di vista, noi siamo su un'altra traccia, un'altra traiettoria forse, però vediamo. Sandra da provincia di Roma. Sì, buongiorno. Buongiorno. Per me è Beppe Grillo. Perché? Perché dunque questa settimana la notizia è che ha delle nuove protesi che le permettono di articolare meglio le dita. Tra l'altro, vabbè, ha fatto anche un gestaccio particolare. Poi la scorsa settimana è stato il suo compleanno, ha compiuto 20 anni, è andato a vivere da sola e ho vinto, che bello. Eccola qua. Abbiamo aspettato perché volevamo lasciarle raccontare bene la storia, che è esattamente sì, questa, le nuove protesi. È un personaggio coraggiosissimo, certo, simpaticissimo. Vero, ed è anche assolutamente un simbolo sia dell'Italia sia del coraggio, della certo, disabilità, del non arrendersi mai, dell'insistere. Sì, che riesce a fare tutto e con simpatia soprattutto. Sì, e ci era piaciuto proprio, esatto, per questo. Ci era piaciuto per questo e quindi complimenti Sandra. Ha vinto. Ha vinto il libro, sarà contattata dal nostro centralino e quindi brava, anche oggi siamo riusciti ad assegnare il premio. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Io sento già odore di sugo, di sugo. Sai, la domenica le mamme che cucinano, le nonne, tagliatelle, ragù, cose di questo genere. E lo stai dicendo che mancano 4 minuti, stiamo andando a fare colazione, sì, quindi figurati. Ma se noi non lo sento anch'io. Solo pizzette, quindi non niente di paragonabile a quello che accade. A meno che non aprano un ristorante diffuso anche qua a Milano e adesso lo scopriamo. Speriamo. Mamme del Borgo è l'iniziativa che parte dalla Puglia e con noi Leonora Bianchi, che fa parte di questo progetto, ne è responsabile della comunicazione. Mamme del Borgo, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Sarai anche tu una mamma, Leonora, hai una voce così giovanile. No, io non sono ancora mamma, infatti, spero di diventarlo presto. Allora, perché sì, diciamo che cosa succede? Ristorante diffuso, che vuol dire che vi siete inventati questa cosa? Mamme che in effetti cucinano proprio loro per chiunque vuol venire a trovarle, nelle piazze, nei borghi, tutto nasce in Salento. Sì, esatto, a noi piace chiamare il progetto anche Cucina Casalinga Diffusa. Siamo nati come progetto in Salento, nello specifico a Tricase Porto, che è un paesino, un borgo di pescatori sulla costa adriatica verso Santa Maria di Leuca, e qui ci siamo inventati appunto questo mix tra home restaurant e street food, quindi abbiamo unito tradizione, la cucina tradizionale salentina, all'innovazione, cioè quella di mangiare prendendo dall'uscio di casa il piatto che e bello. Poi camminando per il borgo e visitandolo. Un'esperienza anche che... unica, perché uno un'esperienza così non la può fare se non con un'iniziativa come la vostra, perché hai voglia, senza nulla togliere, andare in un ristorante o andare a mangiare la cucina di mamma Pina, che te la tira fuori da casa sua e tu la gusti lì davanti ma, a lui. Ma come funziona? Nel senso che veramente io vado e mi prendo il piatto da casa di qualcuno e poi giro con questo piatto in mano? Sì, sì, è veramente così, solo che chiaramente non è una cosa improvvisata, ci sono delle date, ci sono delle serate prestabilite, noi di solito facciamo un calendario. Dove vi fate pubblicità? Diccelo, che magari qualcuno adesso gli è venuto a voi. Sul nostro sito, che è lemammedelborgo.com. Fantastico. Poi abbiamo la pagina in italiano, Facebook, brava, in italiano. Instagram. Sì, perché no, qui senza inglesismi inutili, lemammedelborgo.com, fantastico. .com, esatto, poi abbiamo, vabbè, tutti i social possibili immaginabili, insomma, cerchiamo di promuoverci, quindi è normale. Con cene anche da 150 persone, non cene anche, sì, cioè voglio dire, anche sì, tanti, sì, tanti invitati così. Le mamme del borgo di Motta Camastra, che sono in Sicilia perché si è unito un altro borgo l'anno scorso, cucinano anche per più persone, arrivano anche a 200, anche perché il borgo probabilmente è un po' più grande, quindi dipende un po' dalle da come si è organizzati, certo, dalle dimensioni, dal numero di mamme, soprattutto se si hanno 10 mamme, se si hanno 5 mamme, cambia. Certo. Viva le mamme. E poi le persone riportano il piatto, giusto? Beh, i piatti sono piatti Mater B compostabili, quindi no, c'è tutta la avete pensato anche a questo? Perfetto. Sì, bravi. Sì, sì. Siamo assolutamente a minimo impatto ambientale. Mi scuso che intanto sto camminando. Ci mancherebbe. Stai andando giusto a prendere il piatto. No, stai raggiungendo la fiera perché siete a fa la cosa giusta. Sì, che c'è ancora oggi. Giusta. Che c'è ancora oggi qua a Milano. Prego. E quindi l'appuntamento è fino a tutt'oggi alla Fiera di Milano per tutti gli appuntamenti di Fa la Cosa Giusta, in particolare per conoscere le mamme del borgo. Grazie. Grazie mille. A te, grazie, Leonora. Grazie. Ciao, vi aspetto. È una bellissima idea. Mamma mia, a Milano è capitata una volta una cosa del genere, ma era un'iniziativa così sporadica. Chissà se prenderà piede. Mamme del borgo, anche qua, sarebbe bellissimo. Molto bello. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Andrea Roccabella, tutta la squadra, tutti quanti, anche noi. Però ho detto i nomi a questo punto: Alessio Maurizi, Carlo Gabardina, che se non dovevo dirlo, sciopero le firme, sciopero il Sole 24 Ore. Ma la cronaca arriverà. Ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo.